24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, quando sono le 6:32 minuti ci siamo anche oggi in diretta fino alle 9 con il nostro Alessandro Longoni in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia e il nostro bar che è pronto ad aprirsi, ovviamente come al solito sapete che tanto offre tutto la nostra carissima Nicole Minetti, che non parla ma paga, paga. Tipo di dichiarazione. Caffè. Un caffè si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. Per tutti quanti. La nostra moca è già in azione qui nel bar di Radio 24, dove ritrovo due clienti. Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama, buongiorno e ben svegliato. Eccoci qua. Il caffè è buono, per cui ci si arriva volentieri. Con la moca, con la moca, quindi facciamo le cose. Poi chissà, poi la moca l'apprezzerà, immagino, soprattutto Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno e ben svegliato. Anche se uno degli oggetti che stanno scomparendo, non so se avete notato, ormai con le cialde e le macchinette. È vero. Avrete fatto una causa anche su questo? No. Io sto raccogliendo tutti gli oggetti scomparsi. Se qualcuno mi viene in mente, qualcuno me lo mandi sul blog. Com'è il blog? Lo dica, com'è il blog? Com'è il blog? Dica. Il blog è carlorienzi.it. Carlorienzi.it. Avete degli oggetti scomparsi da segnalare, che Carlo Rienzi fa il collezionista? Qual è l'oggetto più strano che ha Rienzi, che ha trovato di recente? No, non si trovano, quelli che trovati non, per esempio l'Hula Hoop una volta ce l'avevano tutti a casa, adesso chi ce l'ha più? È vero. Oppure le palline. Ma di cioè vetro. Lei che fa, li scova e li colleziona, no? No, assolutamente. È la memoria, perché i nostri figli, nipoti, eccetera, non sanno tante cose che si facevano. Tanti oggetti che si usavano e poi insomma non mi sembra il caso che siano come in un museo quando li rivedono, insomma. Lo so, Maurizio Tortorella, tu hai un oggetto che ti ricordi che è scomparso, no, così a memoria? Dalla mia infanzia mi è venuto in mente adesso mentre le parlava Rienzi le palline click clack, quelle orrori da spiaggia che sono le palline click clack? No, non lo so. Mi ricordo quelli coi ciclisti dentro per fare le gare. Perché tu sei giovane, quando ero piccolo io sulla spiaggia soprattutto apparvero e fecero furore almeno per un'estate due palline di plastica pesanti attaccate a due filini e il gioco consisteva nel farle battere quelle che adesso ho presente, ma quello meno male che sono sparite però. Cioè, io parlavo delle palline di vetro con cui si giocava a Tozzamuro. Vabbè, siamo finiti, questi ai suoi tempi Rienzi, mi scusi qua. I tempi, vabbè, certo, mica sono sparite le cose di 20 anni fa o di 15 anni fa ancora. Certo. Allora, qui sono arrivati i giornali, il Sole oggi ha una bella inchiesta, le regioni, le tasse aumentate del 50%, da quando ci sono le regioni, ha fatto un'inchiesta al Sole 24 ore, l'addizionale IRPEF soprattutto, sono aumentate le tasse negli ultimi 10 anni per gli italiani. Del 50%, evviva, trionfale. Però io voglio iniziare con i titoli di alcuni giornali, il giornale su tutti, perché abbiamo anche un audio da cui vorrei partire, la vicenda Sallusti, sui quali vi vorrei coinvolgere. Sallusti in galera, i delinquenti fuori, questo è il titolo vergogna del giornale, Libero, arrestateci tutti. Alcuni giornali aprono su questo, tra l'altro oggi Panorama esce con l'editoriale, se non sbaglio, Maurizio Tortorella, l'editoriale che di solito è affidato al direttore del giornale, vale a dire Giorgio Mule, è stato scritto per questo numero da Alessandro Sallusti, è stato ceduto lo spazio a Sallusti. Vogliamo sentire Sallusti ieri alla redazione del giornale quando è arrivata la condanna definitiva a 14 mesi di carcere per un articolo apparso su Libero nel 2007. Finita questa assemblea andrò dall'editore a dimettermi, rifiuterò l'affidamento ai servizi sociali e quindi immagino che andrò direttamente in carcere. La qualcosa non mi fa assolutamente paura, proprio minimamente. Non ho nessuna intenzione di chiedere la grazia al presidente Napolitano, perché penso che se la giustizia italiana è arrivata a fare questo, Napolitano abbia delle grosse responsabilità. Allora, responsabilità anche di Napolitano. Allora, Tortorella e Rienzi, devo dire che oggi sui giornali quasi tutti i direttori, sono pochissimi i commenti, ma ci sono, ce n'è uno in particolare, ho trovato sul Secolo XIX, che dice: ma che, smettiamola con questo buonismo, ha scritto delle cose false, ci sono delle cose false scritte in questo articolo, e quindi il giornalista non è un cittadino diverso dagli altri, se ha sbagliato deve pagare, c'è una legge che prevede il carcere, è sbagliata, però c'è e va applicata. Maurizio Tortorella. Il punto di principio, sono una premessa: che esista una norma che punisce la diffamazione a mezzo stampa con il carcere è una follia, ed è questo l'unico paese a prevederlo al mondo. Dal mio punto di vista di legalitario, quindi rispettoso della legge, posso essere anche abbastanza d'accordo con questa presa di posizione anomala, nel senso che se uno commette un reato, in questo caso la diffamazione, e la norma prevede, il codice penale prevede una certa pena, se poi un giudice, in questo caso la Cassazione, ti condanna alla pena definitiva di in carcere, quella pena c'è. Cioè, l'articolo l'ho trovato sul Secolo di Mauro Barberis, o Barberis, è un docente di filosofia del diritto all'Università di Trieste. È una presa di posizione un po' astratta. Che dice: poi il punto è che ci sono scritte falsità in questo articolo ed è stato dichiarato. Per questo è stato considerato diffamatorio. Tra l'altro conclude con una frase molto dura: se mai Sallusti finirà in galera, giuro, gli porto io stesso le arance. Questo professore. Sì. È una posizione, appunto, ripeto, teorica, addirittura teoretica, molto molto astratta. La legge dura lex sed lex, dicevo un tempo, no? La legge è dura ma va applicata. La legge è dura, ma in questo caso non è dura, è folle, perché ovviamente punisce con il carcere un reato di opinione. Un reato di opinione, o comunque quello che è scritto in un articolo. Quello che è scritto in un articolo. La legge c'è. Tra l'altro la vicenda giudiziaria è esemplare da questo punto di vista, perché in primo grado Sallusti fu condannato a una pena, a una sanzione. €5.000. Come avviene per la maggior parte delle diffamazioni, quando c'è diffamazione, c'è una pena pecuniaria. Nei confronti dei magistrati la diffamazione viene pagata più cara e più velocemente che in ogni altro caso. Viaggia più velocemente. Professionale. Questo va detto. Io ho avuto un'unica esperienza di diffamazione, non lo posso dire da chi, ma da un magistrato anche influente. Un magistrato, poi è avvenuta con una remissione di querela. Questa è la versione edulcorata dei fatti, la versione ufficiale non la posso svelare, ma noto e dichiaro che quella causa nel paese della giustizia ingolfata viaggiava più veloce di un Frecciarossa tra Milano e Roma, una roba che spedita Milano-Roma in un'ora e mezza più o meno, faceva così. Ci sono circolari del CSM che prevedono espressamente che i procedimenti a carico di giornalisti e di diffamazione che riguardino magistrati debbano procedere più velocemente. Evidentemente si sono attenuti a una circolare. E hanno fatto anche calcoli, te lo dice uno che è stato condannato un'unica volta in Cassazione per diffamazione, ovviamente per una causa promossa da un magistrato. È stato calcolato che i risarcimenti dati ai magistrati sono tradizionalmente molto più elevati, ma del 20-30% rispetto a quelli riservati ad altre categorie. No, detto questo, perché non deve apparire una difesa di casta, Rienzi, Rienzi, lei che è ligio e rispettoso delle leggi, che ne pensa di questa vicenda? No, ha ragione perfettamente, è una giurisdizione domestica, cioè come non va bene che la FIGC nomini giudici che poi giudicano loro stessi per il calcio, come non va bene che in sede disciplinare i medici siano giudicati dai medici, gli avvocati dagli avvocati, e non va bene che i dipendenti della Camera o comunque le cose che fanno i senatori e i deputati siano giudicati dalla Camera e dal Senato. Una cosa folle. Lì c'è l'autodichia. C'è l'autodichia. C'è l'autodichia, si chiama giurisdizione domestica. Abbiamo fatto un'esposta ai questori contro un onorevole. Me la siete presa contro l'autodichia? No, allora non va bene nemmeno questo, cioè non è possibile che quando un giudice fa una querela venga giudicato dai suoi colleghi, perché naturalmente chi deve giudicare è un giudice, no, ci vorrebbe sempre... intanto una giustizia veloce, perché che cosa dovrebbero fare come pena? La sospensione dall'attività di giornalista per un periodo, allora questo c'ha un senso ed è anche una reale punizione per un giornalista se dice la bugia, se dice il falso, ma che senso ha dopo tanti anni dire devi andare in carcere, perché lui si emenderà in carcere, cioè il carcere deve avere una funzione di recupero sociale, ma non esiste proprio, cioè è una cosa ridicola, assolutamente ridicola, che uccide 10 persone ubriaco in preda alla droga esce dopo poco perché è un reato di omicidio colposo plurimo. E invece questo direttore va in carcere per una cosa sbagliata, perché si è detto la bugia, ha fatto male. C'è da dire che secondo me poi alla fin fine, come è giusto che sia, non finirà in carcere. Qualcosa si troverà, ci sono 30 giorni di tempo. Lui ha detto non chiederò l'affidamento ai servizi sociali. O no, Tortorella, succederà qualcosa? È stata sospesa la punizione. Sì, è stata sospesa, ma per 30 giorni, cioè nel senso che almeno così scrive lo stesso Sallusti dice che forse entro 30 giorni, ci sono 30 giorni di tempo, poi potrebbe diventare esecutiva. Comunque, in ogni caso, adesso questi sono tecnicismi di legge. Alla fine non andrà in carcere, immagino, Tortorella, no, Sallusti? Qualcosa succederà, o tecnicismi o tecnicalità giudiziarie, oppure un decreto, non lo so, ma o interverrà Napolitano o no? Francamente non lo so, e non so quali possono essere le strade per evitare una cosa del genere. Al momento la pena è sospesa, come giustamente dicevi tu, perché la procura tra l'altro ha rilevato che non ci sono carichi di pena pregressi, cioè non ci sono condanne precedenti nei confronti di Sallusti ad altre pene detentive. Di solito comunque sotto un certo numero di mesi, di anni di pena detentiva comminata non si va in carcere, c'è appunto l'affidamento ai servizi sociali. Il fatto che lui lo abbia rifiutato credo che sia un precedente, cioè che non abbia precedenti, quindi vediamo che cosa effettivamente poi succederà. E allora alle 6:46 minuti, Renzi, che dobbiamo fare con questi politici? Si è dimessa, lei l'ha capito se la Polverini si è dimessa? No, diceva che di no ancora. No, si sta per dimettere. Dimettere, però dico, che dobbiamo fare? Noi forse diamo un premio a Fiorito, amico del consumatore. Perché amico del consumatore? Perché ha consentito di scoprire chi veramente ha fatto strame dei soldi pubblici, e cioè tutti i partiti che si riunivano per superare una sentenza della Corte Costituzionale ottenuta dal Codacons, perché sulla giunta Marrazzo noi facemmo annullare una legge che dava 23 milioni di euro a tutte le associazioni dei consiglieri, che facevano, si riunivano e dicevano vabbè, in base a una legge vecchissima del 73 diamo soldi ai gruppi politici, poi si riunivano di nuovo, diamone di più, poi si riunivano di nuovo, diamone di più, e sono questi tutti, non basta dire non abbiamo spostato il piazzo, ci pentiamo, hanno imbandito la tavola tutti i partiti, PDL, PD, Italia dei Valori, UDC, non so se ne ho mancato qualcuno. Sì, ma sicuramente, ce ne sono talmente tanti. Quindi sono loro i responsabili, noi stiamo facendo una citazione al TAR del Lazio per fargli restituire i soldi a questi signori, e a fianco a noi ci saranno i comuni, ci sono comuni che stanno interrompendo il servizio di autobus perché non hanno i soldi alla regione. Ci sono le associazioni del terzo settore che devono avere un sacco di soldi e chiuderanno per colpa della regione. Ci sono le persone malate, gli ospedali che non hanno strutture. Pensate che a noi la Polverini ci disse che non poteva fare un servizio per gli extracomunitari in più lingue per salvarli quando vanno al pronto soccorso, che a volte non sanno capire che gli danno l'aspirina, semmai da cui sono incompatibili. Perché ci sono le ostriche da pagare. Mamma mia. Ma adesso al di là delle facili battute, Tortorella, perché sono pazzi questi politici? Era meglio la Prima Repubblica? Signora mia, si stava meglio quando si stava peggio. forse sì, insomma. Poi è tutto un vedere se si rubava di più o di meno, però il concetto di base è sempre quello. formalmente c'era maggiore dignità, poi ogni era si rubava più in giacca e cravatta, non si andava in TV poi a dire siamo tutti puliti, siamo tutti. C'era maggior forma, forse, questo sicuramente. Facevo un calcolo che l'aumento dell'IRPEF, tu hai aperto il tuo bar raccontando appunto di quanto sia aumentata, no, 50% in 10 anni, ma l'aumento dell'IRPEF del 2012 stabilito dalla regione Lazio è andato fondamentalmente a finanziare l'incremento delle dotazioni dei gruppi consiliari, che sono stati circa 17 milioni più o meno, è quanto è andato in più ai gruppi. Ecco, ma la gente cosa chiede? Perché io ormai ieri ho twittato questo, noto nell'aria, si sente quasi l'odore di una gran voglia di menare le mani, cioè, diciamolo francamente, no Maurizio? Che è un po' pericoloso, cioè ormai la gente mi chiede, e chiede anche via mail, di invitare i politici e appena aprono bocca bisognerebbe riversargli una serie di insulti, improperi, a dire zitti, ladro, farabutto, mascalzone, cioè questo ormai è il livello, non se ne esce. È l'antipolitica obiettivamente ha qualche rischio, comporta grossi rischi, perché evidentemente può avere una deriva anche autoritaria fondamentalmente, il rischio che spazzata via una classe politica ci si affidi al primo che passa o al primo che si propone è sempre nell'aria, e questo va tenuto ben presente e va ricordato. Non tutti i partiti politici hanno partecipato al banchetto nel Lazio, per esempio, bisogna sempre essere attenti e evitare Non quasi tutti, cioè, so che i radicali l'abbiamo fatto, la trasmissione, li abbiamo invitati, hanno diciamo tirato fuori la questione. E sicuramente non in tutti i gruppi politici, partitici, ci sono stati, hanno tutti partecipato alla greppia. Ma come giustamente anche all'interno dei partiti c'è magari chi ha rubato di più e di meno, per carità. Vorrei farvi questa domanda, Francone Fiorito, da me definito Rocky Fiorito per la capacità di combattente che ha, cioè è incredibile, si mostra col suo faccione ovunque e ribatte colpo su colpo. Andrebbe bandito dalle TV o andrebbe intervistato? Questa Tortorella, proprio come fossi tu il direttore, non so, di Canale 5, delle news, lo inviteresti oppure in Rai, oppure andrebbe basta, insomma, dargli un palcoscenico? I meccanismi televisivi hanno purtroppo rispondono a esigenze di audience. Beh, certo. E fa audience, Se il servizio funziona è ovvio che uno lo chiama. Il problema è che questo meccanismo infernale produce poi mostri. Questo è il risultato. Il mostro, cioè Franco Fiorito è un mostro. Rienzi andrebbe bandito dalle TV oppure... Ma no, ripeto... Oppure bisogna farlo parlare. Sta aiutando, forse l'unico, poi adesso si stanno accodando, anche ieri vedevo Rai 1, eccetera, a capire... chi sono i veri colpevoli. Beh, adesso però sicuramente adesso, colpevole perché non si doveva comprare champagne eccetera, ma il problema appunto è a monte. Forse pure il mutuo della casa, forse pure i bonifici alla compagna di suo papà è sicuramente colpevole, però la colpa è di chi ha dato i soldi pubblici ai partiti. Quindi viva Fiorito, che adesso apre svela tutto. E tra l'altro farebbe ascolti pure se non avesse comprato lo champagne, perché è un personaggio. Ci siamo ancora, allora, cari ascoltatori, siamo qui alle 7:21 minuti, pronti alla lettura di giornali. Vi ricordo che avremo ospite alle 8:15 Giuliano Ferrara, il direttore del Foglio, che da 3 giorni è scomparso con la sua rubrica in Rai, con annesse polemiche. E poi parleremo ancora di regioni e di quello che sta succedendo dopo lo scandalo Lazio. Avremo ospite alle 8:30 il governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, insieme al nostro collega del Sole 24 Ore Mariano Maugeri. Allora, questo il menù degli ospiti, mentre iniziamo dai giornali. Ma sì, eccoli qua, è giovedì 26. Che faccio? Spengo il microfono, accendo il microfono. È giovedì 27 settembre, la colpa è mia, non dell'alpino Peter Bescapè. Schiaccio i tasti qua e sbaglio. Allora, una rapida carrellata di titoli. Il Sole 24 Ore, regioni, tasse aumentate del 50%. È un'inchiesta oggi in prima pagina. Poi la situazione borse, Corriere della Sera, lo spread torna a mordere. Repubblica, la Spagna affossa i mercati. Il Messaggero, borse giù per la Spagna.

realizzava oggettivamente una diffamazione, quindi è censurabile, scritto non da lui nel 2007 ed è stato condannato non a un risarcimento, cosa giusta, ma alla galera. La galera per un articolo è una cosa grottesca, contraria a una giusta tradizione di diritto che oggi ha, diciamo, la prevalenza nella giurisdizione europea, e quindi bisogna cambiare la giurisdizione o graziare Sallusti ed evitare che un direttore di giornale vada in galera. E su questo non ci sono dubbi, ma infatti c'è una solidarietà tra l'altro di tutti oggi sui giornali. No, però, tutti no, tutti non è vero. 90%. C'è una solidarietà vera di alcune persone che tengono i principi liberali, e tra queste effettivamente ci sono anche molti avversari di Sallusti e direttori di grandi giornali, perché poi il problema della diffamazione in diritto riguarda tutti i giornali, chiunque sia direttore di una testata e, diciamo, abbia questo famoso problema dell'omesso controllo su ciò che si pubblica. Però ci sono anche fior di testimonianze avverse, c'è Massimo Fini che sul Fatto Quotidiano sì, si augura che Sallusti vada più presto in galera, e, insomma, c'è molta robaccia. C'è anche il professor Barberis, o Barberis oggi sul Secolo XIX, scrive: ma che, smettiamola, in quell'articolo sono state scritte delle cose false, cioè palesemente accertate come false, e quindi se c'è una legge, o si cambia la legge o quella legge va applicata, e non è che i giornalisti sono diversi dagli altri. Sì, appunto, ci sono molti che sostengono che la galera per un articolo è tutto sommato una sanzione accettabile. Io penso che la galera per l'omesso controllo sull'articolo scritto da un altro abbia un effetto intimidatorio, insomma, diciamo che qualunque direttore di giornale diventa praticamente un avvocato, ecco, non più un giornalista, non più uno che agita problemi, che quindi può sbagliare, che quindi è in dovere di risarcire, che è in dovere di rettificare, che è in dovere di cospargersi la testa di cenere se fa una cosa gravemente lesiva dell'onorabilità di un altro. Ma se il punto è che va in galera, diventa un commissario ad acta, cioè uno che prende queste carte che gli passano i suoi cronisti, i quali naturalmente sono tenuti al famoso diritto di informare i lettori, e ci mette un timbro di procura, cioè questa si va in galera, questa non si va in galera, questa si può, questa non si può, eccetera. Sì, un mondo così può essere anche, diciamo, migliore dal punto di vista del controllo di legalità, sì, come direbbe Barberis. Il problema è che questo altro forse dovrebbe dire sono stato io a scrivere questo articolo, perché l'ha scritto sotto pseudonimo, come si fa a accertare chi è? Sì, anche questo è un problema, naturalmente. Cioè, perché se uno scrive sotto pseudonimo, poi gli si chiede al direttore o al giornale chi è che l'ha scritto questo articolo, che dobbiamo querelarlo, e non si dice chi è, e in questo caso il direttore è finito in mezzo, ecco. Sì, certo. No, ma è una storia piena di insidie, questo non si può naturalmente negare. Noi facciamo un mestiere abbastanza spregevole, sia lei che io, lei è giornalista, no? Sì, mi pare di sì. Ecco, abbastanza spregevole. Posso farlo, sì, spero di sì. Insomma, c'ho la tessera. Questo, ecco. E quando siamo autoironici lo riconosciamo anche, perché mettiamo in pubblico, in piazza, in forme spesso sbrigative, eccetera, la vita degli altri. Quindi siamo un po' spie, un po'... Poi siamo abborracciatori, non approfondiamo, dobbiamo tutti i giorni, in 24 ore... dare un'idea del mondo, si figuri un po', non ci riescono i grandi romanzieri in 900 pagine di romanzo, ci dobbiamo riuscire noi in 30 pagine di giornale. Quindi, diciamo, mestiere spregevole, esposto a gravi rischi, e la gente ha ragione anche di diffidare dei giornalisti, appunto i gazzettieri. Questo non vuol dire che si debba pagare con la galera un articolo di giornale, questo no, perché francamente c'è tutto lo spazio per, ripeto, dalla rettifica in poi anche al risarcimento in denaro, sì, trovare modi diversi, dire qualcosa a chi è stato diffamato. Però non è che Sallusti o comunque se la debba prendere soprattutto con i politici che non hanno fatto nulla, cioè hanno promesso di depenalizzare questo reato e non l'hanno fatto. Cioè un magistrato che cosa deve applicare? La legge che c'è, certo l'ha fatta in maniera severa, probabilmente sì, hanno esagerato. No, vabbè, l'osservazione sul comportamento della quinta sezione penale della Cassazione è ovvia, il procuratore generale aveva offerto, diciamo così, una interpretazione della sentenza di condanna in appello particolarmente severa e anche un po' misteriosa nella sua genesi, perché poi ogni processo ha una sua storia. Comunque adesso non voglio stare a criticare quella sentenza. Dico che quella sentenza il procuratore generale della Cassazione, non io, non Sallusti, non Mauro, non Calabresi, non i direttori di giornali, non De Bortoli, l'aveva criticata, aveva detto è buona per tanti aspetti, però non è impeccabile, perché il tema delle attenuanti generiche, che sarebbe stato dovuto in sentenza, avrebbe condotto a una riduzione della pena e quindi al non mandare in galera un giornalista. Sembrava una soluzione in mattinata, ma nel pomeriggio è stata data l'interpretazione più rigorista. Sì. Insomma, io adesso non voglio fare insinuazioni e non vorrei neanche andare in galera, d'altra parte, ma insomma, diciamo che l'aria è quella di una sentenza umorale, se non umorale, politica. Cioè, diamo un po' una lezione a un giornalista di destra, un po' ribaldo, che dirige un giornale fatto di titoli molto squillanti, di trascinamento ideologico, eccetera. Qualche anno fa ha fatto un errore, non ha controllato un articolo che attribuiva un fatto falso a un magistrato, il magistrato tra l'altro fa parte della nostra corporazione. Mandiamo un avvertimento, così la smettono di prendersela con i Cioè, dice ancora la storia dei magistrati rossi, ancora. Come? La storia dei magistrati rossi, diciamo così, possiamo. No, io non ho mai usato questo termine. Beh, di destra, rossi, quindi. Mi sembra un po', come dire, un po' primitivo. No, è che i magistrati ovviamente occupano un posto centrale nella vita italiana, sono più importanti oggi dei giornalisti e spesso anche degli uomini politici. E si difendono forse anche con sentenze un po' umorali, un po' simboliche, ecco, la giustizia un po' sommaria, di dire vada in galera uno per educarne 100, e questo è un fatto che riguarda tutti. Le chiedo questo, cambiando discorso, Francone Fiorito cosa le ispira? Quello che ha detto io tiravo le monetine a Craxi. Sì, ma guardi, io sono veramente stupito dal chiasso che si fa, cioè sono praticamente, adesso... lo spread è tornato a livelli imbarazzanti, la borsa è caduta del 3,3%, spero si torni ad affrontare le vere questioni di un paese come l'Italia, che è un grande paese europeo, con delle banche, con un potere bancario e finanziario da mettere in discussione, con una politica estera da realizzare, eccetera, eccetera, e con un'economia da salvare, con il lavoro che non c'è. Ecco, no, sono 3 settimane che si parla soltanto delle note spese di un burino di sociaria, spero di non andare in galera per aver detto burino, lo dico affettuosamente, che nessuno conosceva, di cui nessuno sapeva niente, di cui nessuno avrebbe saputo niente, se non per il fatto che aspirava come una sanguisuga. Ma lui ha scoperchiato un sistema dell'erario pubblico in una regione come il Lazio. E si rimetteva sui suoi conti. Ma lui ha scoperchiato un sistema. Bisogna naturalmente sanzionarla con le armi del diritto, eccetera, e anche l'informazione deve darne conto, ma non si può rimanere appesi a Franco Fiorito. Ma no, questo no, però lui ha scoperto un sistema, cioè così pare che in tutte le regioni funzioni, e quindi sono milioni e milioni di soldi. Infatti la cosa importante è che la conferenza delle regioni, il governo e chiunque ha il potere di farlo legislativamente, sanzionino questo fatto togliendo i quattrini, insomma i rapaci. Bisogna tagliare le unghie ai ladri, non parlare dei ladri e fare uno psicodramma intorno ai ladri di oltre un mese, insomma, perché sennò un paese poi non riesce a emendarsi. Ma non è che tutti siamo potenzialmente ladri e quindi più che le unghie... Oltretutto il Lazio, scusi, volevo solo osservare questo, la Polverini se n'è andata... anche lei ha fatto troppo starnazzato, secondo me. Poi ci sono tutti questi ladri, ladroni, arraffoni del Consiglio regionale. Poi ci sono le feste in maschera. Ma diciamo, il precedente Consiglio regionale è morto perché il suo presidente, poveraccio, aveva evidentemente dei problemi, è finito in un giro di prostituzione, di transessuali, con dei carabinieri felloni in storia di cocaina e di malversazioni legate alla droga. Quello precedente ancora, c'è stato il famoso, che non si è mai capito se era vero o falso, Watergate. Cioè tra un mese credo la sentenza definitiva, Storace ce l'ha detto l'altro ieri. Io spero che naturalmente sia positiva per Storace, però voglio dire, insomma, non è che il Lazio sia questa specchiata casa di vetro. Sì, non ce n'è uno che va in porto. Appunto, insomma, lo sappiamo da 15 anni che nel Lazio succedono le peggio cose. Adesso vogliamo continuare per altri 2 mesi a parlare dello scandalo di Fiorito, ma vogliamo proprio farci del male. No, dello scandalo di Fiorito allargato a tutta l'Italia, a tutte le regioni, se questo sì, questo magari sì. Sì, ma ripeto, certo, bisogna che non abbia, ma è ovvio che se tu dai 20 milioni per il funzionamento dei gruppi regionali del Lazio, e questi se li rubano, o della Toscana, ma non credo che lì le cose siano in questo modo, E poi la tentazione di questi qui di approfittarsene, o stampando un numero eccessivo e noioso di manifesti, è inutile, sì, oppure facendo delle feste e delle vacanze nei resort esotici, cioè, è notevole. Allora, leviamogli almeno la tentazione, ma smettiamo di far ruotare l'universo mondo intorno a quattro ladri e ruba gallini. Ferrara, io la devo salutare, posso permettermi di chiederle se stasera la vedremo? No, in... sono soldi della Rai, tra l'altro, quindi famosa, soldi pubblici. Una famosa, che vuol dire cazzi miei? C'è una famosa dicitura, si chiama fine delle trasmissioni. Ah, ecco, poi basta. Si suona l'inno nazionale. Anche se è servizio pubblico, quindi è un... il cielo, le nuvole, eccetera. Accontentatevi di questo. Scopriremo alle 8:30, lo grazie, scopriremo accendendo la TV. Grazie a Giuliano Ferrara. Grande dilemma che verrà svelato questa sera dopo il TG1. Ferrara, che da tre giorni non va più in onda con Radio Londa, ma sono cazzi suoi. Voglio salutare il governatore della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, del Popolo della Libertà. Buongiorno presidente, grazie Buongiorno, per essere qui con noi. Grazie a lei. Saluto anche Mariano Maugeri, collega del Sole 24 Ore. Mariano, eccoci, buongiorno. Coautore tra l'altro dell'ebook La disfatta delle regioni, il titolo è emblematico, già dice tutto. Allora, presidente Scopelliti, non so se oggi ha già letto il Sole 24 Ore, che fa un'inchiesta. L'inchiesta è questa: da quando ci sono le regioni, il fisco regionale da record è aumentato di 10 anni del 50%, con le addizionali IRPEF, soprattutto la leva che possono muovere i governatori, e contemporaneamente è aumentata la pressione fiscale centrale, sono raddoppiati i costi della politica. Insomma, abbiamo voluto tanto decentramento o federalismo, che poi non si è mai ottenuto. Per questo, governatore Scopelliti, questo è il risultato delle regioni? Eccolo qui, è caduta la linea, ma adesso lo recuperiamo. Mariano, la giro a te la domanda, ma insomma è abbastanza, qui è un'inchiesta con dati e numeri, c'è poco da dire, ma è il risultato delle regioni? Sì, perché credo che dipenda in buona parte dalla mala gestio che poi abbiamo riscontrato nel corso dell'inchiesta in tutte le regioni italiane, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, quindi nessuna regione esclusa. Le regioni si sono strutturate dopo la riforma del 2001, del titolo quinto della Costituzione, questo è un passaggio importante, e come delle repubbliche autonome, e i governatori sono dei piccoli monarchi. Si volevano rendere le regioni più governabili, si sono creati dei mostri autoreferenziali che sostanzialmente non rispondono a nessuno, non hanno contrappesi, perché il consiglio regionale ormai non conta assolutamente nulla, tutto nelle mani del governatore. Ha una grande autonomia, però, come abbiamo visto anche in Lazio. Forse troppa autonomia, perché la democrazia, come segnala Montesquieu, dipende dall'equilibrio dei poteri. Se Mariano, fai così, fermati un attimo qui, perché intanto l'abbiamo recuperato. Governatore, era per lei la domanda, poi è caduta la linea, ma siamo con Mariano Maugeri. È questo il risultato delle regioni? 10 anni e più 50% di tasse? Guardi, io do una chiave di lettura un po' più, diciamo, approfondita e meno per slogan, nel senso, questo tipo di scelta ha prodotto sicuramente dei vantaggi. Storicamente sui territori si è sempre reclamato il fatto che il centro non potesse scegliere, diciamo così, per la periferia. Abbiamo avuto situazioni devastanti sui territori perché dal centro venivano fatte le scelte che condizionavano lo sviluppo e la crescita delle comunità. Poi, quando parliamo di autonomia, entriamo nel campo delle scelte del buonsenso, delle regole, dell'etica, della morale. E qui è chiaro che subentra il discorso che oggi, prendendo atto di quanto è accaduto in alcune realtà, di quanto accade, ci sono dei problemi reali. Sì. Di pessima gestione e di abuso, diciamo, da parte di chi ha il compito invece di guidare in maniera sobria e anche coerente rispetto a quello che dice agli elettori i propri territori. Però, presidente, mi scusi, il concetto di etica e morale, se io la vedo così, a mio modo di vedere, se uno ha 100 euro per poterli rubare, sì, ci sarà la persona virtuosa, ma generalmente, purtroppo in Italia questo si è verificato, li ruba. Non è meglio semplicemente toglierglieli questi 100 euro? L'unico modo per evitare che uno rubi 100 euro in Italia è non darglieli. Temo che sia così la risposta. Sì, sicuramente, se tu hai la possibilità di avere 100.000 euro sul tuo conto personale, diventa, diciamo così, attrae quanto dice lei, c'è una sorta di attrazione. Se invece tu devi rendicontare una spesa con tanto di fattura perché hai sostenuto una spesa per la tua attività sul territorio per conto del gruppo, questo diventa un qualcosa di diverso. Però io lo posso rendicontare, che ne so, in cene, l'abbiamo vista, poi guardi, iniziative politiche, insomma, e poi vai a vedere. C'è il passaggio successivo. Gli uffici di presidenza si devono dotare o di una norma, quindi il consiglio, o meglio ancora di un regolamento, che va a disciplinare le attività all'interno delle quali i gruppi e quindi i singoli consiglieri si devono, diciamo così, si possono muovere. Allora, tutto questo dà la dimensione dell'altro risvolto della medaglia di cui oggi parliamo. Dopodiché, lei dice, sono aumentate i tributi del 50%, ho visto solo il titolo. È l'inchiesta del Sole 24 Ore, no, ma è molto dettagliata. Sì, guarda. No, io ho letto soltanto un giornale ancora perché non ho avuto la possibilità di leggere gli altri. E allora qui c'è un dato reale. Noi abbiamo aumentato, faccio l'esempio della Calabria, soltanto dello 0,15 e lo 0,30 l'addizionale ISPEF e così via, perché questo ci è stato imposto dal governo nazionale. Che nel frattempo ha aumentato le tasse, capisce? Esatto. Cioè tutto va a riverberarsi sui cittadini. Però mi faccia spiegare, sa perché te lo mettono come vincolo, perché tu sei e vieni da una regione che purtroppo ha prodotto in quella stagione di autonomia, come lei ha ben messo in risalto, un disavanzo nella sanità di 245 milioni di euro nel 2009. E io sono stato costretto a mettere, perché me lo ha imposto il governo nazionale, a mettere queste addizionali, quindi il massimo del massimo alle. No, ma è chiaro, mi faccia sentire Mariano Maugeri, che su questo magari vuole o ribattere o fare una domanda al governatore Scopelliti. Cioè la questione è questa, dice il governatore: io eredito una difficoltà del passato e devo aumentare l'addizionale. Di fatto aumentano le tasse nazionali, alla fine a chi va su chi va sul groppone siamo sempre noi cittadini, no Mariano? Sì, infatti temo che Scopelliti, insomma, di grane ne abbia ereditate tante. Nella gestione Chiara Vallotti, che fece due presidenze in Calabria, addirittura non si scrivevano i bilanci delle ASL della sanità, si trasmettevano oralmente come prima dell'invenzione della scrittura. Non stiamo parlando del 1930, ma stiamo parlando appunto del 2005, insomma pochi anni fa. E questa era la situazione della regione Calabria. La regione Lazio, adesso parliamo, tutti siamo appassionati del Batman, pochi ricordano che l'80% del debito sanitario nazionale è stato creato in 10 anni dalla regione Lazio, cioè la voragine sanitaria di questo paese ha un nome, un cognome e una regione in cui si concentra, il resto l'ha fatto poi la Campania, segue anche la Calabria, il Molise e lì di andare. Cioè il problema è la cattiva gestione dei soldi pubblici. Sai benissimo che l'80% dei bilanci regionali, poi tutte le risorse sono accentrate sulla sanità, alla voce sanità. No, ecco, ma su questo il problema però è questo, che è quello che ha fatto emergere il caso Fiorito. Da qui voglio ripartire tra un minuto dopo le informazioni sul traffico. Leggevo che anche ieri, anche sul Corriere della Sera, che anche in Calabria, è vero, c'è una riforma allo studio, ma l'articolo 7 di una legge del 2002 prevede che le spese effettuate da ciascun capogruppo non siano rendicontate, visto che da qui voglio ripartire tra un attimo col governatore Scopelliti. Cioè com'è possibile che poi il caso Fiorito ha fatto esplodere questa vicenda, che soldi pubblici si vengano aumentati, soldi ai gruppi, nessuno dica niente, nessuno sappia niente, il governatore in questo caso del Lazio, la governatrice, dice io non sapevo nulla, e tutto questo con soldi nostri sotto gli occhi di tutti. È davvero possibile, è credibile una cosa del genere? C'è con noi il presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, al quale giro questa domanda. Com'è possibile che siano un bancomat queste regioni, presidente Scopelliti, e nessuno controlli? Ma guardi, io ho visto nei giorni scorsi, insieme al presidente del Consiglio regionale, i rendiconti presentati da parte dei capigruppo, e quindi le spese dei gruppi sostenute. Tutto mi è parso abbastanza in linea rispetto a quelle che sono le regole dettate, appunto, che disciplinano questo tipo di attività. Ribadisco, io penso che al di là di questo aspetto molto importante, che sicuramente va a gestire e governare, noi ieri siamo stati prima dal Presidente della Repubblica Napolitano, dopo Palazzo Chigi, dal Sottosegretario alla Presidenza Catricalà, per motivare e per spiegare che siamo pronti già da oggi a mettere in campo una serie di azioni per dimostrare la nostra piena e totale adesione a questo percorso di spendere più, e metterei in risalto un altro aspetto. Negli ultimi 3 anni le regioni hanno subito un taglio che si aggira intorno ai 50 miliardi di euro. Allora questo è un altro aspetto che non va sottaciuto e che va messo in risalto. Capisce che però questo magari questi tagli poi vi costringono ad aumentare le tasse e a danneggiare i cittadini sotto forma di servizi, ma per i politici i soldi quelli ci sono sempre, sono stati aumentati. È un paradosso, guardi, cioè mentre c'è questo meno entrate da parte dello Stato, i politici, i capogruppi si aumentavano nella Regione Lazio, per esempio, da 1 a 11 milioni in un anno il fondo per i gruppi consigliari. Però se lei dice che c'è autonomia, dobbiamo rispettare le autonomie. Ho capito. All'atto dell'insediamento nella mia regione abbiamo tolto i vitalizi, abbiamo ridotto del 50% le consulenze, abbiamo ridotto del 40% le commissioni consiliari, abbiamo ridotto del 30% le strutture. Un presidente di regione in Calabria ha la possibilità di avere 5-4 collaboratori, perché uno è stato sottratto, 4 collaboratori, diciamo così, e 2 interni e 2 esterni. Ma com'è che leggevo ieri sul fatto che lei è anche il fotografo personale? È vera questa cosa? Ma questa è una delle tante cose che raccontano. Noi abbiamo un ufficio stampa dove ci sono dei ragazzi che hanno il compito di fare sia giornalisti, di fare le riprese con le telecamere. C'è uno che fa anche, diciamo, da fotografo, che percepisce 2.000 euro al mese. Ma se lei va a verificare, forse questo il Fatto Quotidiano è poco attento, un po' tutti hanno questo tipo di figura all'interno degli uffici stampa. Mi sembra chiaro e legittimo: un presidente va a una manifestazione, non sempre comunque seguito da tutta la stampa, e noi forniamo le informazioni, facciamo il nostro comunicato con i filmati, con la foto. Questo mi sembra una cosa, insomma, un po' fuori luogo, questa polemica che nasce, ma è chiaro che tutto diventa strumentale e funzionale. Quant'è che guadagna? Lei quanto guadagna? Quant'è l'emolumento? Io guadagno 11.000 euro. Il mio cedolino, non più tardi di un anno fa, l'ho inviato a tutti i direttori dei giornali delle testate italiane. Netti? 11.000 euro netti? Sì, 11.000 euro netti sono tanti. Sono gli unici soldi che io percepisco. Sono tanti, però, Presidente. Ascolti, io sono le uniche risorse che io, gli emolumenti che ho, perché non ho benefit ulteriori, non ho altri. Beh, però 11.000 euro, capisce che questi tempi sono... Per carità, non è che se l'è dato lei lo stipendio, se l'è trovato, però... No, me lo sono trovato. L'ho ridotto, attenzione. Noi abbiamo fatto una riduzione degli stipendi regionali della Calabria. Dopodiché, se servirà una riduzione ulteriore, siamo qui per far questo senza alcun problema, se decideremo come conferenza delle regioni di intervenire. Tra l'altro, quello che percepisce il Presidente della Regione Calabria, diciamo così, è a metà tra quelli che percepiscono di più e quelli che percepiscono di meno. Ma voglio dire, io credo che se poi ci fossilizziamo su questo tipo di polemica, che sono i costi della politica, come politica facciamo un errore. Questo è perché è un errore? No, il qualunquismo no, ma perché è un errore? Di questi tempi, sa, i costi della politica sono un tema caldo. No, ma è giusto, è correttissimo, però dico, noi stiamo facendo delle riforme, stiamo lavorando da almeno 6 mesi, dove abbiamo scoperto che ci sono enti, che ovviamente enti subregionali, che possono essere sicuramente rivisitati nella loro mission, e abbiamo notato che ci sono comunque dei costi che vanno certamente rivisti. Vedi, un presidente di regione si assume una responsabilità grande ed enorme, ed è sempre chiamato in causa da tutto e da tutti, e a volte ci sono, diciamo così, semplici funzionari o dirigenti o amministratori delegati che invece magari non hanno queste grandi responsabilità e magari percepiscono quanto... Ah beh, ma questo sicuramente. Allora, prima di andare da Maugeri, no, Presidente, le devo fare questa domanda perché il tempo fugge, però gliela devo fare perché ho letto un articolo 2 giorni fa su Repubblica, su 400 pagine di relazione prefettizia sulle presunte infiltrazioni mafiose del comune di Reggio Calabria quando lei era sindaco, per il quale c'è anche un'ipotesi di scioglimento del comune di Reggio Calabria per una vicenda di quando lei era sindaco. Ecco, mi dica che cosa ne pensa di questa vicenda. È tranquillo e sicuro di tutto? Tranquillo sugli 8 anni del mio governo, come sono molto tranquillo e sicuro dell'anno del governo del sindaco Arena, persona di grande qualità e sicuramente professionista affermato, riconosciuto da tutti. E qui c'è un po' la caccia alle streghe. Il ministro si insedia e un giornalista, guarda caso, noto a noi calabresi, All'atto dell'insediamento della conferenza stampa, il ministro Cancellieri si alza e dice: scusi, ma lei manderà la commissione d'accesso a Reggio Calabria? E il ministro rimane sorpreso da questa domanda, perché dice: mi sono insediato adesso. Questo le fa capire che si è costruita una strategia per demolire quanto di buono abbiamo fatto in 8 anni e si sta facendo oggi nella città di Reggio Calabria. Però vedremo, questa relazione c'è, vedremo come va. Beh, mi faccia dire un attimo però, Mariano Maugeri, perché io ho un minuto, Presidente, altrimenti sforo. Va bene tutto quello che dicono le regioni, anche questo taglio di 300 consiglieri promessi, oppure un maquillage che si fanno e tutto andrà avanti più o meno come prima? No, Alessandro, io mi concentrerei su come gestiscono i miliardi dei cittadini, perché ormai lo Stato ha delegato tutti i poteri alle regioni. Il nuovo Stato sono le regioni, sono 20 stati nello Stato, e quindi potrebbe guadagnare Scopelliti 11.000 o 50.000, non è quello il punto, perché lui gestisce un bilancio di svariati miliardi, una decina penso, e quindi e può muovere quel bilancio come meglio crede. L'autonomia. Esatto, attraverso le società partecipate, stai attento, perché le società partecipate sono società private, gestite ai sensi del codice civile, quindi se io giornalista vado a chiedere delle informazioni su una società controllata dalle regioni, e sono centinaia, migliaia, mi dicono questa è una società privata in cui, guarda caso, nel 99% dei casi c'è un tirapiedi del governatore che obbedisce al governatore. Lì sta il malloppo. Questo in generale, in tutta Italia viene. Il Friuli Venezia Giulia, ti do solo questo dato, 1.200.000 abitanti ha una holding che si chiama Friulia, che controlla 118 società partecipate, gestiscono anche gli impianti di risalita in montagna. No, ma è chiaro, lì ci sono uomini di fiducia, diciamo così. Io mi devo fermare, se vorrà il governatore Scopelliti riprenderemo questo discorso, è ben reinvitato in una prossima occasione. Lo ringrazio per essere stato con noi, Presidente della Calabria, con Mariano Maugeri del Sole 24 Ore. Ci ritroviamo domani alle 6.30. Roberto Formigoni, buongiorno. Non le rispondo, ho già risposto tante volte. Non rispondo. Alla questione delle vacanze. La tolgo dall'imbarazzo di fare la domanda di un concorrente che poi il suo editore si arrabbia con lei e dice: ma fai pubblicità a noi e non fare pubblicità alla stampa concorrente. Accidenti, poi mi licenzia magari. Allora niente, allora fermiamoci qui. La ringrazio. Le risparmio il licenziamento. Grazie.